Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di uno dei mezzi di comunicazione più popolari, quello che stiamo utilizzando in questo momento, e cioè la radio. E lo facciamo attraverso un libro di un esperto della materia, Giorgio Simonelli, docente dell'Università Cattolica di Milano, che ha scritto il libro Cari amici vicini e lontani, un vecchio leitmotiv della radio d'antan. Sottotitolo del libro L'avventurosa storia della radio, pubblicato da Bruno Mondadori, 164 pagine, 16 euro. Il libro racconta la storia dell'evoluzione della radio anche alla luce delle innovazioni più interessanti che si sono manifestate, e questo libro ha anche particolare attenzione alla situazione italiana. In particolare l'analisi di Simonelli si sofferma sull'evoluzione del linguaggio radiofonico, inteso ovviamente, come scrive l'autore, come insieme dei suoi elementi significanti. La radio è stata moderna, possiamo dire, fin dal suo apparire, perché è segnata dal tentativo, scrive l'autore, di eliminare la materialità del canale della comunicazione. Qui c'è tutta la modernità della radio, la sua appartenenza a un'epoca nuova, al nuovo secolo che nasce più che al secolo XIX che muore. E in questa attività, in questa nascita della radio, naturalmente rifulse il genio anche organizzativo e finanziario di Guglielmo Marconi. La storia della radio è subito segnata da episodi che lasciano a bocca aperta tutto il mondo, fino ad assumere la dimensione dell'autentico mito, come avviene nel 1912 in occasione del disastro del Titanic, che dà il titolo al primo capitolo del libro. Il libro è diviso in quattro capitoli, ciascuno dei quali si rifà a quattro film che hanno per protagonista anche la radio e di cui sentiremo alcune battute della colonna musicale. Ma adesso sentiamo anche l'autore. Buongiorno a Giorgio Simonelli. Buongiorno a tutti. Ecco, questa era qualche battuta della colonna sonora del Titanic, che dà nome al primo capitolo del suo libro. Qual è la dimensione mitica che quel disastro fece assumere alla radio? Ma c'è questo mito, ecco, diciamo tra storia e mito, e la testimonianza di David Sarnoff, che poi è l'inventore della radio così come noi la conosciamo, che raccontò a posteriori, ovviamente quando già era molto importante, era il capo dell'RCA, raccontò nella sua biografia di aver avuto l'idea della radio come broadcast proprio nella notte dell'affondamento del Titanic, quando lui era un semplice marconista che lanciò l'SOS del Titanic a 360 gradi, e da lì ebbe l'idea che la radio, invece che trasmettere messaggi da punto a punto, poteva diventare un mezzo che mandava messaggi appunto a tutti coloro che le volevano ricevere, e questi messaggi dovevano diventare messaggi musicali soprattutto e non più soltanto messaggi di pubblica utilità. Ecco, questa notte mitica, che poi è stata celebrata da film, da romanzi, oltre che dai libri di storia, è anche la notte in cui qualcuno ha avuto l'idea della radio come broadcast, la radio come mezzo di intrattenimento e di informazione, così come noi la conosciamo. Perché in fondo la radio era nato come un oggetto di elettricità, come l'aveva definito indirettamente la Regina Vittoria. Sì, la radio era nata come un mezzo, come un telegrafo senza fili, ecco, come un mezzo per trasmettere dei messaggi che paradossalmente tutti si preoccupavano che non venissero ascoltati, cioè l'opposto di un mass medium. Cioè, l'idea della radio, anche la di Marconi, era quella di trasmettere da un punto ad un altro punto definito, evitando accuratamente che qualcuno intercettasse, perché erano per lo più messaggi militari, messaggi navali o messaggi commerciali. E quindi, insomma, proprio il contrario. La storia della radio è molto bella perché è piena di queste contraddizioni, per cui si fa una cosa, poi per caso questa cosa diventa il suo opposto e da lì nasce il grande successo. Non è solo in quel caso, ma quello è il caso forse più clamoroso. Il film di Woody Allen, Radio Days, ci introduce al secondo periodo, il periodo nel quale lei scrive che va dal momento in cui la radio si struttura come mass medium e comincia a esercitare un'influenza notevole sulle conoscenze, sui consumi, sugli stili di vita in aree molto vaste, in vari strati della popolazione, fino alle stagioni in cui la proposta radiofonica rifluisce entro ambiti più ristretti, più definiti, modificando il suo linguaggio, le sue funzioni, il suo rapporto con il pubblico. Insomma, che cosa succede in questo periodo illustrato appunto dal film Radio Days? Ma infatti questo periodo è lunghissimo, perché va appunto dagli anni 20 fino agli anni 60 in America, fino ai 70, agli 80 in Europa e forse fino ai 90 nell'Europa ex comunista. Succede quello che il film di Woody Allen, Radio Days, racconta mirabilmente. Succede che la radio si riempie di suoni, di rumori organizzati all'interno di un testo, a sua volta organizzato all'interno di un preciso genere, che è all'interno poi di alcune emittenti che hanno una loro precisa fisionomia. Succede che si delineano i grandi network in America, si delineano i grandi sistemi pubblici in Europa, a volte compromessi anche con le dittature che segnano l'Europa tra le due guerre. Succede soprattutto che il pubblico si appassiona moltissimo, come i protagonisti di Radio Days dimostrano, si appassiona moltissimo alla radio, ai suoi contenuti, ai suoi generi, ai suoi spettacoli, ai suoi protagonisti. La radio è una radio piena di piccoli grandi divi e la radio diventa anche questo nuovo focolare attorno a cui si riunisce la famiglia, e in questo diventa un po' l'erede, questo Sarnoff aveva capito tutto, l'erede del fonografo, l'erede del pianoforte, l'erede del grammofono, insomma l'erede di tutti quei mezzi che avevano trasferito all'interno delle mura domestiche il consumo culturale, il consumo di tempo libero. I Love Radio Rock, il film di Richard Curtis, ci introduce a un periodo che ci ricordiamo tutti, quello delle radio rock, l'esplosione di questo fenomeno, un fenomeno che fu reso possibile da due grandi innovazioni tecnologiche, cioè la modulazione di frequenza e la diffusione dei transistor. Allora, in questo periodo che cosa succede? Come cambia la psicologia della radio? Questo periodo appunto che è segnato intanto da alcune novità tecnologiche, cambia soprattutto perché si trasforma la società, ecco, è la società del dopoguerra, la società di quel periodo felice che in Italia chiamiamo boom, e che è caratterizzata da una nuova cultura giovanile. Per la prima volta noi vediamo una forte cultura giovanile, che è anche una cultura egemone, insomma, i gusti dei giovani, i gusti musicali, ma anche i gusti dell'abbigliamento dei giovani, si fa sempre riferimento ai jeans o alla minigonna, no? Diventano i gusti imitati da tutta la popolazione, da tutta la società. Allora, la radio interpreta molto bene questo grande cambiamento, questa rivoluzione culturale, perché propone soprattutto la musica che i giovani amano, che è il rock and roll. E attorno a questa musica costruisce i suoi programmi, la sua emissione, nel senso che la musica domina e tutto il resto è funzionale alla musica. Emergono nuove figure come le figure dei DJ, che sono un po' il cuore della radio, perché anche gli altri generi, l'informazione, il dibattito, la drammaturgia radiofonica, ruotano attorno a questa centralità, che è la centralità della musica e soprattutto di una nuova musica. E questo è poi la grande epopea delle radio cosiddette libere, perché queste radio hanno avuto anche in Europa una certa difficoltà ad affermarsi, perché mentre in America già dagli anni, nel passaggio dai 50 ai 60 con il grande rock, no, queste radio si affermano in un mercato libero, anzi una certa disattenzione da parte dei grandi network che sono ormai impegnati in televisione, in Europa c'è una certa resistenza, come il film racconta, I Love Radio Rock racconta in maniera un po' epica, no, questa resistenza durissima, repressiva da parte della BBC e del governo inglese. Ma anche in Italia sappiamo che le cose sono state assai complesse, perché la liberalizzazione dell'etere è passata attraverso lotte, battaglie politiche, sentenze della Corte Costituzionale per rendere libero l'etere accessibile anche a questo tipo di radio che è diventata dominante. Oh, my Lord, done just what he said. Let the light from the lighthouse shine on me. E questa nuova radio manda in soffitta il periodo glorioso, quello illustrato dal film di Robert Altman, Radio America. Che cosa succede in quest'ultimo periodo? In quest'ultimo periodo succede che Altman, come sempre, poi questo è l'ultimo film di Altman, quindi inevitabilmente non può non avere una vena finale malinconica. Altman riconosce, insomma, sul finire del secolo, insomma, una specie di declino della radio, un'emarginazione della radio, una radio che è intrisa di nostalgia, di valorizzazione del tempo passato. Devo dire che, insomma, a me pare che Altman, che è stato un grandissimo, io sono un grande fan di Altman, insomma, ha calcato la mano un po' nella direzione negativa, mentre la radio poi subito dopo nel passaggio dal secolo scorso al nostro secolo ha avuto una forte ripresa che ha smentito un po' questa vena così finale, ultima di Altman, perché i primi anni del 2000, insomma, hanno visto una ripresa molto forte della radio che si sentiva, e questo Altman forse voleva dire, si sentiva, come dire, oscurata, l'idea del forgotten medium, del medium dimenticato, perché la neotelevisione l'aveva messo un po' ai margini, ecco. In realtà poi la radio ha rivelato in questi anni, come voi sapete bene, una grandissima ripresa, una grandissima vitalità, che fa di questo film di Altman, insomma, una lettura molto poetica, ma per fortuna non realistica. Questa radio infatti smentisce quella tesi. Grazie a Giorgio Simonelli, autore di Cari amici vicini e lontani. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di una donna dalla personalità complessa che è stata una delle protagoniste del Novecento culturale, la moglie di Mahler, Alma Mahler, che poi sposò altri illustri personaggi, Walter Gropius, il grande architetto, e alla fine un altro grande nome della cultura dell'epoca, cioè lo scrittore austriaco Franz Werfel. Il libro di Alma Mahler Werfel appunto si intitola La mia vita, è pubblicato da Castelvecchi, 312 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Francesco Salieri con un'introduzione di Leonetta Bentivoglio. Quest'ultima ricorda il malizioso soprannome che le era stato dedicato, vedova delle quattro arti, perché assieme all'architettura, alla letteratura e alla musica c'era anche la pittura, rappresentata da un altro suo grande amore col quale la Mahler non convolò a nozze, e un altro grandissimo nome, cioè il pittore Oscar Kokoschka, il pittore che forse, scrive la Bentivoglio, rappresentò l'amore grande, forse il più sentimentalmente intenso e memorabile per Alma. Di lei Kokoschka fa la sua modella e musa, immortalandola in ritratti che gireranno il mondo. Lei stessa fu un'artista, era pittrice, musicista, e ci lascia in questo libro la testimonianza vibrante dell'epoca del primo Novecento, soprattutto anche se l'autrice attraversò praticamente quasi tutto il secolo, morendo vecchissima nel 1964. E proprio la passione per la musica avrebbe segnato negativamente, fin da prima del matrimonio, il suo rapporto con Mahler, come rivelano queste righe. Durante il nostro fidanzamento, egli passava spesso lunghi periodi a Berlino e Dresda in tournée, mentre io a Vienna mi esercitavo componendo con Zemlinsky. Così una volta mandai a Mahler una lettera più breve del solito, affermando che non avevo tempo di scrivere più a lungo perché dovevo lavorare. Fu la causa e l'inizio di un periodo duro e doloroso della mia vita. Gustav Mahler pretese, per lettera, che rinunciassi immediatamente alla mia musica. Dovevo vivere solo della sua. Ad esempio, riteneva che il matrimonio di Robert e Clara Schumann fosse stato ridicolo. Diceva che mi dovevo decidere. Andai su e giù per la mia stanza tutta la notte. Mia madre mi udì, venne nella mia camera e mi esortò a lasciare Gustav Mahler. Conosceva la mia vita e sapeva che dopo i 18 anni ero vissuta solo di musica. L'astinenza che uno si impone da solo è giusta, ma quella che viene comandata, come accadde nel mio matrimonio con Mahler, mi spinse al limite della sopportazione. Del resto, non avevo mostrato a Mahler neanche una nota della mia musica. Ci sposammo il 9 marzo 1902 nella chiesa di San Carlo a Vienna. Interessante, tra l'altro, la descrizione dell'ascesa del nazismo e delle vicissitudini degli ebrei e degli oppositori al regime, vicissitudini che la riguarderanno direttamente perché lei stessa poi andrà in esilio a New York, dove arriva il 13 ottobre del 1940 riconoscendo negli Stati Uniti, come scrisse, un suolo davvero libero. Curiosa anche nel libro una notazione che fa su Verdi. Verdi scrive: un caso singolare di umiliazione masochistica, solo così mi posso spiegare la sua predilezione per gli amori e matrimoni tra persone di razze diverse. Otello, Alzira, Aida, Forza del Destino, Trovatore, con una forma di squilibrio che deriva forse dalla sua infanzia. Verdi assomiglia agli ebrei. Gli ebrei sentono poco le mescolanze e le estraneità razziali. Partecipano e simpatizzano per i popoli oppressi, essi che portano nel sangue persecuzioni plurisecolari si identificano con coloro che soffrono o errano. E questo, anzi, noi oggi lo riconosciamo come un ulteriore titolo di merito per il grande compositore italiano. Ma insomma, nel libro trovate il ritratto di una donna veramente fatale che vede passare tra i suoi amori e gli ambienti frequentati tutto il Novecento. Del rapporto tra donne, in particolare tra madre e figlia, parla il libro di Mariella Gramaglia e Maddalena Vianello, Fra me e te, è pubblicato da Et al Edizioni, 184 pagine, 14 euro. La madre è una giornalista, storica femminista, ex parlamentare, la figlia una studiosa, e le due donne si scrivono parlando delle rispettive esperienze ed esigenze. Naturalmente si parla di due mondi ormai molto diversi. La madre ha seguito il cursus honorum culminato appunto con l'elezione in Parlamento, la figlia denuncia invece la condizione di perenne precariato nella quale si trova, e naturalmente osservazioni sui due femminismi che le due generazioni hanno vissuto, quello di 30-35 anni fa e quello di oggi. A questo proposito sentiamo cosa scrive la figlia alla mamma. Può darsi che le mie idee siano influenzate dall'essere cresciuta negli anni Ottanta, in cui si spegnevano tutte le rivolte e la televisione privata diventava oppio. Anni in cui il movimento delle donne era in declino. Tuttavia, ecco un punto che rimprovero al femminismo storico: l'aver dimenticato le donne nel loro insieme. Noi donne, da concetto abusato a titolo di una storica rivista. Quelle noi donne non erano veramente le donne nel loro complesso, ma solo noi donne emancipate, intellettuali, di una certa estrazione sociale, di un certo orientamento politico e accompagnate da uomini dagli occhi liberi. Insomma, quelle donne non sono le donne, ma una sparuta elite. E le altre? E concludo nel libro di Gramaglia e Vianello due testimonianze di Franca Fossati e di Lidia Ravera. Di quest'ultima in particolare voglio ricordare che lo stesso editore Et al ha pubblicato Se lo dico perdo l'America, 258 pagine, 14 euro, che è un'altra storia femminista che segue un altro romanzo, Bagna i fiori aspettami, con protagonista Jo. Qui abbiamo un'avventura americana nella quale fa capolino anche la riflessione sull'identità di genere. E sul rapporto tra madre e figlia segnalo un graphic novel, un fumetto di Alison Bechdel, un'autrice statunitense che ha pubblicato Sei tu mia madre, un'opera buffa, tradotta da Isabella Zani, 292 pagine, 19 euro, e pubblicato da Rizzoli Lisar. Questo è un rapporto difficile con una madre abbastanza incombrante, in un libro che all'estero ha ricevuto un trattamento controverso dei critici. Alcuni, per esempio, hanno sottolineato la ricchezza forse eccessiva dei riferimenti letterari, soprattutto a Freud e alla Wolf, che lo rende piuttosto ambizioso, ma in ogni caso è molto bello il tratto e il disegno del libro. Un'altra autrice, quest'ultima ben nota agli ascoltatori di questa radio, è Valentina Furlanetto, che ha appena pubblicato L'industria della carità, da storie e testimonianze inedite, il volto nascosto della beneficenza, pubblicato da Chiare Lettere, 246 pagine, 13,90 euro. La Furlanetto, come sapete, è un'esperta e appassionata del settore del volontariato e delle Onlus, e coglie in questo libro gli aspetti talora contraddittori delle attività che vi si svolgono, confessando di aver capito, come scrive scrive lei stessa, che la povertà è un prodotto che viene venduto come altri prodotti, promuovendo costose analisi di mercato, organizzando campagne stampa, sbattendo spesso il volto di un bambino preferibilmente affamato, sfigurato, impaurito, sullo schermo di un televisore o a tutta pagina su un quotidiano. Insomma, c'è una ricchissima attività dietro la beneficenza e appunto la Furlanetto esplora cosa c'è dietro questo schermo. Soprattutto in Italia è molto importante scoprirlo, perché da noi, come scrive l'autrice, cavalcando il buon cuore del telespettatore donatore, si può fare quasi tutto. Di certo si raccolgono soldi per le cause più disparate, si semplificano e si banalizzano complesse situazioni di crisi e quasi mai si viene a sapere che fine hanno fatto i soldi. Tra l'altro, molto spesso queste cause servono solo, come scrive l'autrice, a far carriera anche nel mondo dello spettacolo. Scrive infatti la Furlanetto: sulla Croisette a maggio, al Lido di Venezia a settembre, sulle colline di Hollywood tutto l'anno, le buone cause si mescolano alle bollicine dello champagne ed evaporano spesso con la stessa velocità. Le celebrities, più o meno sull'onda ma tutte ugualmente gonfie di buoni sentimenti e di tartine al caviale, passano da un'asta benefica a un party solidale. I giornalisti scodinzano loro dietro come segugi da tartufo, pronti a fare domande argute e intelligenti, tipo: la gente dovrebbe fare di più per l'Africa? Insomma, questo libro è un'analisi a favore della trasparenza e dell'efficienza. Non vuole certo smontare i buoni sentimenti e le buone intenzioni, ma rappresenta un'opera meritoria proprio perché ci può impegnare a fare bene la beneficenza. E a questo punto... Il confettino. Una buona causa si può difendere con il libro di Geronimo Stilton, che è pubblicato a favore della Fondazione Umberto Veronesi. Si intitola Lo strano caso dei brufoli blu, PM 120 pagine, 9 euro. Troviamo nel libro un nuovo protagonista, il professor Toponesi, omonimo naturalmente del professor Veronesi, e a favore di borse di studio per la Fondazione Veronesi vanno appunto i proventi di questo libro. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Peter Bescapè in regia. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.